trasmissione. È solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo. minuti primi. Tornati sulle frequenze di Radio Onda Rossa, gli 87.9 della banda romanellaziale. Nove della banda romana laziale dagli anni 90. Questa la frequenza. Dal 1977 la radio. La radio che la bocca cucita non ce l'ha, continua a parlare. Continua a dire quello che non viene detto, ciò che c'è di spinoso dentro questa società. Continua a essere antipatica ai potenti. Pure alle potenti, eh. Visto che ci abbiamo la prima presidente del consiglio donna della Repubblica, ci teniamo a destare questa antipatia, eh? Che invece evidentemente va a genio a molti e molte di voi, già che ci ascoltate vuol dire che va a genio, ma non solo perché appunto è un ascolto passivo, perché chi si ascolta sa che deve essere un ascoltatore attivo, lo è, lo sarà, prima o poi prenderà parte con interventi, con telefonate, con il sostegno di qualsiasi tipo. Tutte e tutti noi che da questa parte dei microfoni andiamo in onda, molte volte succede che chi ascolta poi diventa pure una redattrice o un redattore. Così funziona Radio Onda Rossa e funziona anche il finanziamento, così con chi ci sostiene da tanti anni e che ha permesso a Radio Onda Rossa di vivere senza fare pubblicità e senza avere sussidi da partiti o partitini. Per sostenere la radio ci sono varie modalità, innanzitutto il sito www.ondarossa.info, andate su sostieni e ci sta una paginetta dove c'è scritto tutto quello che è necessario e sufficiente per poter sostenere la radio. Il numero del conto corrente postale da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001. Via via dei Volsci 56 00185 Roma San Lollo. E appunto abbiamo detto anche che siamo in via dei Volsci, lo sapete. Quindi quando ci venite a trovare, bene anche che così diate un piccolo contributo per la radio. Altrettanto ci potete venire a trovare o seguire le iniziative che facciamo, numerose, benché sia autunno, in giro per gli spazi occupati della città. Avete sentito poc'anzi lo spot per Atarassia. Prosegue peraltro, questo è al forte, prosegue peraltro invece la serie di iniziative della radio che ormai da tempo facciamo, gli aprirò alla SNIA, insomma. E poi c'è anche altro, ne sentirete parlare. Quindi 23 in punto e abbiamo iniziato con il dischetto che ci è stato portato qui con presentazione annessa dai Pischelli Street Punk di Ostia, 612,2 registrato al forte. Abbiamo ascoltato la terza traccia che si chiama TSO e in attesa di un collegamento dall'ultimo lavoro di Ratten Koenig, il re dei sorci. Stasera siamo così, preparatevi, ci siamo pure dimenticati un disco, accidenti. La intro è Petrolio, le prime due tracce, dal momento che appunto anche qui si tratta di Rude Punk. Memorie dell'Endaest, tracce da 1:14, quindi intro più Petrolio, Ratten Koenig. Allora, ci dovremmo essere, ci sei, ci ascolti, ci senti, rispondi? Ci siamo, ci sento, buonasera a tutti e a tutte. Noi ti sentiamo bene, tu ci senti con il giusto sì, volume. Anche qui Tremonti, vi sento anche benissimo. Laggiù. Va bene, allora annunciamo. No, il discorso è questo, che insomma bisogna pur svoltare le puntate di 25 o'clock in, abbiamo detto, cerchiamo di parlare un po' meno, far parlare gli altri. Ci abbiamo un nostro portafoglio di opinionisti, le trasmissioni si fanno con gli opinionisti, no? Adesso la comunicazione sì, moderna, no, gli influencer, sì. Però insomma, essendo noi penso la trasmissione più scrausa dell'etere, almeno insomma questo primato, insomma, Chiara Ferragni ci aveva da fare e mi ha chiamato a me. No, non, cioè proprio il portafoglio è insomma limitato a, anche a te, ecco, insomma, pochi altri sfortunati, e quindi niente, ti tocca di assecondarci, ecco, perlomeno. Allora, Marco dei 38 Punk, una vecchia conoscenza comunque di queste parti, relegato nelle tarde ore della notte fra le montagne della Sabina, vabbè, insomma, così, ogni tanto ci ricordi, noi usiamo dei poco più avanti del tantam e dei segnali di fumo, siamo nella comunicazione. Nel mondo della funzione globale. Io sono ancora un Nokia 8007, esatto. Da cui orgogliosamente riparlo. Non ti si può mandare i link perché non sei in grado di leggerli, perché non c'è internet sul tele, cioè non è uno smartphone, questi ma oggetti internet strani. Ce l'ho in negozio, però esatto. Non ce l'ho a casa. Sul telefono, sì, ma poi non ce l'hai sul telefono, non puoi. Ah, vabbè, quello proprio sarebbe. Quindi vabbè, insomma, noi altrettanto siamo talmente invece così proprio misantropi, no, sai, ci che dà quasi fastidio. I telefoni quelli con la rotella, quelli della SIP, il bigrigio, un prodotto antiquariato, cominciano ad avere un valore. Beh, ce l'hai te uno da qualche parte? Sì, uno ce lo deve avere di quelli con la rotella, ancora quelli grigi. Il bigrigio, il cosiddetto bigrigio con il disco combinatore, così si chiamava l'oggetto. Cominciano ad avere un valore. Cominciano ad avere un valore, pure noi probabilmente fra poco cominciamo a avere un valore, ci metteranno proprio a noi nelle porranno al figurino. Sì, ascolta, allora, in questa comunicazione, dicevamo, fatta con bigrigio con disco combinatore, segnali di fumo, Leopoldo Mastelloni. Leopoldo Mastelloni che c'entra sempre, anche se qui non deve entrare, vabbè, per una vecchia nostra contesa, però insomma, P38 Punk, insomma, hanno fatto uscire, comunque si muovono lentamente, piani quinquennali, quindi con, no? Quinquennali, sì, come il congresso del PCC. Con estrema. Stanno ancora, hanno finito adesso la prima fase della terza fase del percorso al socialismo, perché l'hanno divisa in due, non so se lo sai, il socialismo scientifico. Loro invece di fare il passaggio, no, rivoluzione, dittatura del proletariato, socialismo scientifico e poi alla fine comunismo, hanno fatto socialismo scientifico prima fase, adesso sono entrati nella seconda fase del socialismo scientifico. Sì, insomma, i tempi che servono sono quelli. Sto leggendo un bel libro di fantascienza, poi casomai probabilmente lo conoscerai. Esatto, loro veramente prospettano in tipo in secoli, sì, come la Chiesa. Certo. E vabbè, insomma, quindi all'atere dai, affronteremo pure un pochettino del congresso recente. Ho seguito con interesse. Mm-hmm. E ci eravamo salutati con l'agenda Draghi portata avanti dai vecchi squali post-democristiani. Mm-hmm. E adesso ci risalutiamo con l'agenda Draghi portata avanti dai vecchi squali post-fascisti. Ci manco troppo posto. E manco troppo post-democristiani, diciamo, perché comunque insomma. Ah, no, perfetto. Cioè, la condicio. Renzi in quota. Cioè, Renzi era in quota al documento De Mita, mi sembra. corrente De Mita. Letta in quota a chi era? Sì, ma anche sono giovani, quindi probabilmente sì, insomma, avevano affrontato i primi anni della politica in quel periodo lì, però probabilmente Letta, immagino la corrente di Martinazzoli, però potrei sbagliare, così. No, Renzi era sicuro, cioè Renzi fu eletto coordinatore giovani di C proprio in quota alla tesi De Mita. Quindi non so Letta, però insomma, sì, ho azzardato io, però i vecchi squali non post democristiani, in più senza neanche l'etica cattolica, quindi anche peggio. Sì, riconvertiti al modernismo più che alla modernità, insomma, perché chiamarla modernità, sì, potremmo dire, buttandola sul teologico, intrisi di una falsa morale, una pseudo morale calvinista, ecco. Ci siamo, mercantilista. Quindi che cosa è successo a inizio settembre? Che abbiamo fatto uscire un video, insomma, visto che quest'anno ci siamo trovati nostro malgrado in una polemica, cioè c'è un gruppo di compagni rappers quasi omonimi nostri. Mm-hmm. Che tra l'altro con cui ci siamo anche scritti un paio di volte dopo che è successo il casino, che certo. Saluto la P38 Gang, importante, sì. Gli articoli, certo. Che hanno fatto un che sono residenti, credo sono residenti, credo, in Bologna o giù di lì, Ravenna, Ferrara. Non lo sappiamo, non lo diciamo, non lo dicono loro. Non lo dicono loro, però insomma l'area in cui fanno concerti è quella, poi insomma sono problemi loro, magari sono de Catanzaro, insomma. Però diciamole, hanno suonato in quella parte lì d'Italia. Sì, insomma, con una coreografia un po' particolare, per alcuni versi molto simile alle nostre coreografie dal vivo, per altri diverse, e diciamo che con un genere del tutto diverso, perché fanno hip hop loro, coreografie, no? Diverse. Fanno hip hop loro, no? Quindi proprio un genere loro, diverso. Sì, fanno trap, noi facciamo punk filatoietico, loro fanno trap brigatista. Ho capito. E sì, fatto sta che cazzo, cioè io a 16 anni ho fatto di tutto e non sono finito su tutti i giornali, e buon per loro o mal per loro, si sono finiti subito al primo colpo, e però la solita stampa, se chiamiamo la stampa italiana, per trovare le fonti, qualcuno ha digitato, ha fatto una superficiale ricerca su internet, probabilmente il primo nome che è uscito fuori è simile, era quelli più famosi, diciamo, che suonano pure loro, pure una band, e quindi l'accuratezza della professionalità dei nostri pubblicisti, una stampa, certo. Meravigliosa. E il bello è che si sono, siccome poi cioè in realtà tutte le testate fanno capo, mi sembra, a quattro gruppi editoriali in Italia, credo che siano quattro. Le testate mainstream sicuramente, insomma, siamo nell'ordine, si contano sulle dita. Anche quelle locali, cioè, tipo Il Mattino fa capo al Messaggero, e poi il gruppo, dicendo, quello, no? Della Nazione, il resto del Carlino, eccetera. E quindi hanno fatto copia e incolla con l'errore. Mm-hmm. E noi ci siamo trovati, intanto vabbè, delle visualizzazioni che manco l'avessimo vinto Sanremo. Però l'effetto collaterale, ci siamo trovati il telefono e la mail intasati anche di minacce, insulti, mm-hmm. e quant'altro. Ora, la fama, la fama c'ha i suoi pro e i suoi contro, insomma, quindi sì, no, quella non cercata poi. Appunto, no, ma sai, quando 30 anni fa abbiamo iniziato a fare punk filosofieri, abbiamo messo in conto che delle rotture di coglioni ci potevano essere. Mi ricordo nel 93 i fascisti ci tirarono pure la boccia, la famosa boccia a Campo Bravetta durante il concerto all'aperto, quindi ci sta. Però cazzo, per cose che ho fatto io mi devi rompere i coglioni. No, per cose che ha fatto. Oltretutto non è neanche giusto togliere il merito artistico, perché certo, hai fatto una provocazione, è giusto che comunque la provocazione vada a chi l'ha fatta, gestisci venga riconosciuta, certo, a chi l'ha fatta, venga riconosciuta, cioè, se la gestisca e abbia la, la... Sì, non mi va neanche di rubare il merito artistico, certo, a qualcun altro, quindi certo. Prima abbiamo fatto un comunicato dove abbiamo detto non siamo noi, portando la massima solidarietà, certo, e rispetto ai ragazzini, compagni, che cosa è quello di ragarmi, diario, non lo so, certo, forse anche un po' ingenuamente pensavano che in un paese dove in un anno si è calpestato l'articolo 11, l'articolo 48, l'articolo, non mi ricordo quale, la libertà di movimento, vabbè, pure quello della Costituzione, Draghi si fermava davanti all'articolo 33, le arti sono libere, no? Vabbè, questo ci fa sorridere a noi, però c'è poco da sorridere, e comunque poverini hanno insomma subito anche parecchie pressioni, è giusto anche mostrargli solidarietà, anche perché insomma quasi uomini fanno anche molta, sento molta simpatia, molto affetto, però dico, cazzo, a questo punto facciamo pure noi una bella provocazione. E insomma abbiamo tirato fuori un video dove tutto quello che potevamo mettere come provocazione, preso il compagno Alberto Fazzolo, ce l'abbiamo messo. Tutto quello che ci è venuto in mente come provocazione ha funzionato, tra l'altro sono arrivati anche gli haters tra i vari commenti, quindi quando arrivano i troll e gli haters vuol dire che hai vinto. Va bene, ci siamo divertiti, è stato il mio esordio alla regia dopo vedi, i miei studi le vecchie conoscenze della materia ritornano utili, insomma. No, ma io guarda, non... io ho fatto 10 ore di gatti di tutto, certo, non di più. Istituzioni di regia le ho proprio saltate perché sapevo che la regia era uno stress in creme, sono buttato subito sulla critica. Che ti abbiamo mandato a fare a scuola? No, io ho fatto storia e critica, istituzioni di regia le ho proprio saltate perché sapevo che il regista è un lavoro di merda, è stressantissimo, e ne ho avuto conferma. Io ho preferito fare subito mio l'aforisma di Wilde che dice: chi fallisce come attore, come autore, come regista ha un futuro assicurato come critico. Bruciato le tappe, mi sono buttato subito sulla critica. Quest'anno ho voluto provare la regia, no, mi sono anche divertito, è stata un'esperienza divertente, anche potrei ripetere. Era un corto, quindi insomma un corto di 3 minuti si può fare, insomma, no? Alla fine il prodotto finito deve rimanere in 3 minuti, non credo ci siano state bobine di girato, no? Anche perché le bobine, a meno che tu non abbia una grossa, enorme produzione dietro, non si usano più. Certo. Cioè, girare in 35 ormai devi essere Tarantino, anzi Tarantino gira in Super Panavision, quindi si fa queste cose che a Roma ci sono due sale che hanno lo schermo per il Super Panavision, non so in America, però devi essere proprio uno strafigo per girare con le bobine, oggi si fa tutto in digitale e anche così è stressante, però non escludo altre prove alla Ziga Vertov. Visto che così hai rotto gli indugi, magari può succedere che ci rivediamo. Sì, decisamente. Dobbiamo averne paura, insomma. Temiamo magari che invece dei 3 minuti... Abbiamo fatto questo video che poi tra l'altro il tema torna di attualità perché oggi il video di che? Perché credo che o non l'abbiamo detto, comunque se l'abbiamo detto magari ce lo siamo già dimenticato. Il video è tratto dall'ultimo lavoro vostro, disco del trentennale che è uscito quest'anno, il Mondo Nuovo, e il pezzo si intitola MES, Meccanismo Europeo di Stabilità, che per chi non lo sapesse è il famoso fondo salva stati che ha distrutto la Grecia, per capirci. Quindi è un concetto molto relativo del salvare, non si sa bene in che modo debba salvare qualche stato annichilendolo. Vabbè, adesso stanno salvando anche l'Ucraina, no? Sì, adesso stanno salvando anche l'Ucraina, quindi va bene, cioè, è un po' l'inversione del Medioevo, che poi non era il Medioevo, nel Rinascimento mettevano sul rogo per salvarti l'anima, per l'anima, certo. Il linguaggio è sempre stato piegato così alle esigenze poi momentanee, punti di vista. Cioè, tu lo sai che appunto nel Rinascimento e nell'età moderna la peggior cosa che poteva succedere a un inquisitore era che l'inquisito gli morisse sotto i ferri, non poteva confessare, non poteva salvarti. Cioè, lui lo faceva per il tuo bene. No, ma poi nell'Inquisizione, cioè, deve diciamo, quello che era il compito era comunque anche lì di salvarti l'anima. Salvarti l'anima da una parte, e dall'altra parte scrivere una verità, no? Un po' più temporale. Sì. E quindi se moriva la verità non poteva essere scritta, tra l'altro. Ma quello dipende dall'inquisito, perché allora pochi sanno che in realtà nel Medioevo le persone abbrustolite furono pochissime, i barbecue li hanno scatenati dopo la riforma protestante. La controriforma hanno fatto, loro fanno gli stronzi, noi facciamo vedere che siamo ancora più stronzi. E quindi in realtà, anzi, nel Medioevo, cioè quando c'era il popolo col forcone che voleva bruciare la vecchia vedova Gobba e Orba, in realtà spesso e volentieri era il vescovo, il parroco, che nel parroco dell'alto Medioevo andavano lì e dicevano: guardate, non è che questa ve può far seccare il campo perché è Orba o Gobba. Quindi questa è superstizione. Poi hanno rotto le indugi, si sono sbizzarriti per tutta l'età moderna, addirittura certo, fino all'Ottocento, certo. Gli ultimi luoghi, l'età napoleonica, sì, ce li abbiamo. Beh, ci stanno, non so, processi contro le streghe sono del XIX secolo, ancora nei puritani Stati Uniti, insomma, no? Ma soprattutto perché in realtà quella dell'inquisizione spagnola è una rincorsa. È una rincorsa perché iniziano i protestanti, iniziano anzi i quaccheri, che erano i protestanti, cioè che erano quegli inglesi che dicevano che i protestanti inglesi non erano abbastanza protestanti e quindi volevano essere più realisti del re. Detto questo, appunto, torniamo al linguaggio, il linguaggio che poi viene piegato, e c'è questo MES si intitola così il pezzo, che parla proprio di questa situazione attuale, dove poi tra l'altro appunto è tutto legato. Noi, per salvare l'Ucraina, aiutare l'Ucraina a liberarsi dell'ultimo ucraino rimasto, non so, probabilmente, visto che Zelensky ha mobilitato anche i settantenni, credo che sia anche un modo per pianificare le pensioni, no? Cioè, per togliere. Sì. Ah, beh, vabbè, ma quello, diciamo, non c'è solo la guerra, insomma, anche semplicemente facendoti lavorare fino a sfinimento, insomma, si ottiene comunque lo stesso risultato. Comunque non facendoti lavorare, non lavorare, cioè, a 65 anni o fai un lavoro fighissimo, di quello dicevamo, insomma, che è comunque con dei tempi dilatati, cioè per come sono le tempistiche di qualsiasi lavoro oggi, cioè lo stress e i ritmi proprio di qualsiasi attività umana che viene portata fino allo sfinimento, questa cosa qui è appunto si è sviluppata negli ultimi vent'anni, cioè, probabilmente anche di più, però negli ultimi vent'anni c'è, diciamo, l'esigenza del capitale di replicarsi ha prodotto una riduzione proprio del ciclo lavorativo, per cui i tempi sono diventati sempre più ristretti del profitto, no? E quindi siamo costretti a lavorare, e quindi non, ovviamente sopra i 60 anni, a meno che non c'è, ormai il saggio di profitto non riesce a replicarsi, a ripartire nemmeno. Però sopra i 60 anni le famose camere di compensazione non riescono a ripartire nemmeno con le guerre. Certo. Una volta le famose camere di compensazione di marziana memoria si riempivano, per svuotarle si faceva una bella guerra. Oggi, anche facendo guerra a ripetizione, dalla crisi strutturale da Lehman Brothers, visto che hai impostato il modello di capitalismo, tra l'altro nemmeno un capitalismo sulla produzione di beni, ma un capitalismo sulla finanza pura, quindi un capitalismo di pura speculazione, basato sul bene immateriale, no? Comunque sul prodotto, sul bene immateriale, che è manco facendo guerre riesce a far ripartire. Perché ovviamente la guerra era un modo per dire: c'è la ricostruzione, ammazzo un po' di gente, elimino un po' di spese e poi faccio tutta una serie di appalti, di investimenti. No, se non produci un cazzo, che fai? Certo. Quindi, e comunque poi, è un gatto che si morde la coda. E comunque poi i prodotti sono più economici, cioè comunque ti volti, i prodotti sono più economici, cioè sono venduti a prezzi più bassi, prodotti ormai da quello che è il mondo al di fuori dell'Occidente, ecco, chiamiamolo così, per non tirare in mezzo multipolarità, insomma, di cui cioè sicuramente se ne vedono i prodromi di questa cosa qui, però insomma è una cosa che non vogliamo ancora affrontare, che bisognerà capire come si svilupperà e se si svilupperà. No, quello che dicevo io era appunto del fatto che comunque è vero che la guerra produce appunto anche la come d'altronde diciamo tra virgolette anche le epidemie, le malattie, l'abbattimento della sanità e della sanità pubblica produce sicuramente un abbassamento dell'età media, e questo è un fatto che ormai si vede già da prima del Covid, era già evidente in Italia ad esempio, no? Che l'aspettativa di vita si andava abbassando. Te citavi la guerra come un elemento appunto quando questo qui era la conclusione, no? Io per concludere il ragionamento che facevo prima era che appunto te puoi pure mandare la gente a lavorare fino a 70 anni, no? Non è un problema, 75, 40, ma non è lavorare, cioè la gente non lavora più a quell'età, non ha fisicamente l'idoneità, infatti tantissimi pure sono gli incidenti sul lavoro di persone anziane, per esempio, di persone che non dovrebbero più lavorare, specie se fanno dei lavori materiali. Pure questa, mettiamocela, benché siano esperte, benché appunto ci siano arrivate a quell'età lavorando, e dovrebbero avere acquisito così gli anticorpi, no? Rispetto allo sfruttamento. Ma sì, oppure gli riduci, cioè dovresti ridurre dei ritmi di lavoro. Che so, veramente vuoi far lavorare una persona fino a 70 anni, a un certo punto gli dovresti dare una giornata lavorativa di 4 ore, non di più, con un lavoro che può fare. In Germania in parte l'avevano fatto, insomma, persino la socialdemocrazia ci è arrivata a questo. Vabbè. Va bene, insomma, MEF quindi. Prima che MEF, che appunto è la conclusione di tutto, cioè quando non puoi fare una guerra per aiutare un popolo a migliorare, progredire, come si dice, godere i frutti progressivi, no? le sorti progressive. Sì. Magnifiche e progressive. Delle democrazie liberali, perché già è una democrazia liberale, cioè se non è una democrazia liberale compiuta, gli fai una bella guerra, gliela esporti, gliela importi, gliela difendi, in modo che così si gode, si fortifica. Se invece è una democrazia libera già compiuta, gli fai il MES, che appunto è questo bel trattamento greco secondo il quale poi tu dovresti essere salvato. E insomma, in questo pezzo parliamo un po' di tutto, dalla guerra guerreggiata con le armi alla guerra guerreggiata con le economie, tra i vari blocchi interimperialisti, blocchi alternativi all'imperialismo, perché ci sono cose che secondo me ci sono attori che non sono attori imperialisti, non saranno un socialismo di tipo novecentesco, ma sono un'interessante interpretazione del pensiero marziano, e poi ci sono imperialismi interconnessi come quello morente degli Stati Uniti, che stanno a spalle e quindi cerca di trascinare nel gorgo per restare a galla più vicini possibile. E poi ci stava quello che era nascente europeo, che voleva farsi un imperialismo europeo, è stato stroncato dal vecchio padre morente, appunto quello americano, e quindi si rifà sugli stessi cittadini, perché il costo di questa guerra lo paghiamo noi con le nostre bollette, il taglio del welfare. Questo non fa che accelerare il declino, perché appunto sì, quando c'è una forma di collasso proprio su se stessi del... anche perché poi c'è, dicono che l'ideologia è morta, ma c'è un accanimento ideologico nel perseguire un modello di sviluppo che si è esaurito, cioè la Truss che è stata sconfitta da un cespo di lattuga ed è a suo modo passata alla storia come il governo più breve del Regno Unito. Neanche ai tempi di Enrico VIII si durava così poco, insomma, proprio perché lei voleva riproporre un modello thatcheriano in una società dove le risorse che il modello thatcheriano andava a raschiare funzionava. Perché? Perché c'era un ceto subalterno che si era molto arricchito, cioè stava oggettivamente meglio del secondo, del primo e anche del secondo dopoguerra, arricchito non solamente in termini materiali, ma anche in termini proprio di welfare, no? Qui non parliamo di stato sociale, ma proprio di welfare, per cui c'era più delle posizioni, certo, dei rapporti di forza, delle posizioni che permettevano appunto comunque i minatori inglesi di poter sopravvivere, anche una solidarietà di classe, no? All'epoca si sviluppò. Quindi la Thatcher aveva, diciamo, più acqua da attingere. Questa ripropone la stessa identica politica in un momento che, cioè, dopo un trentennio in cui tutto quello che poteva essere spremuto è stato spremuto. Ma quando l'economia viaggia su un filo di rasoio, sempre, no? Sempre un equilibrio imperfetto. Sì, è la scienza meno esatta della mente umana, dell'ingegno umano, cioè se vogliamo l'astrologia è più precisa, ha più presupposti l'astrologia che non l'economia, almeno l'economia quella fluida, quella rapida, quella creativa, cioè un modello di sviluppo no, può avere dei pilastri, anche delle direttrici che sono le stesse. Un'economia basata appunto sulla speculazione, sul niente, sulla finanza, sono formule magiche, è un grimorio medievale. Che cazzo vuol dire il derivato? Cioè io investo in una fabbrica d'auto. Ci si basa più però... sull'esperienza e sull'empirismo, quello che funziona si segue e poi ciccia, insomma, si va avanti per passo successivo, insomma. Sì, no, ma aveva più presupposti la medicina galenica. Sì, no, chiaro. E tutto questo partendo da MEF. quindi da messa, da messa, da messa, dove il abbiamo messo dentro tutto quello con cui potevamo provocare, perché serve anche una provocazione, credo. Aspetta, ti sentiamo malissimo. Pronto? Senti meglio ora? Un po' meglio. Che credo che questo sia quello che manca sostanzialmente nell'arte, nella musica, cioè la provocazione non fine a se stessa, non per mero... Ti avevo chiesto però adesso, perché io so già dove vuoi arrivare, ti ho chiesto di non pronunciare la parola Maneskin durante 25 O'Clock, perché dentro... Ma io stavo parlando di Leopoldo, sì, Mastelloni, ah, invece, meno male, meno male. Dice la sua prima bestemmia in diretta TV. Già è meglio, diciamo, già mi rincuora questo fatto, tanto l'abbiamo già... Poi di Maneskin ne parliamo malissimo, no, perché meglio... anzi no, diciamo, preferito, il discorso di Maneskin, dicendo che se ne parlassimo ne parleremmo male, ne parleremo, quindi non ne parliamo. No, ma è proprio che come, che ne so, la bestemmia, capito, nella chiesa, che è un fatto di... però qui non si pronuncia quella parola, ecco, questa cosa la chiedevo così, la supplicavo a te, poi vabbè, alla fine appunto siamo bestemmiatori. No, no, e quindi... diciamo che ha più dignità parlare di Mastelloni, che... accidenti. Poverino ha pure pagato, lo sai, no? Sai, che ha pagato ben cara lo smuccolone. No, muccolone, come si dice in toscano? Il moccolo. Sì, boh, non lo so. Il moccolo, boh, potrebbe essere. Comunque ha pagato con un ostracismo su tutte le emittenti di Stato, perché all'epoca c'erano solo quelle di Stato, che sì, poi si è trasmesso anche a quelle private. Sì, sì, sì, sì. Poveraccio, credo che lo abbiano intervistato pure di recente, ho visto qualche sua intervista dove ancora amaramente chiedo scusa. Manco Dario Fo, capito? Cioè, manco Dario Fo dagli anni 60, veramente negli anni veramente dell'Inquisizione, la censura era proprio, cioè metteva le mutande a tutto proprio. E, però a un certo punto Dario Fo proprio in quegli anni 70 riuscì a riproporre poi Mistero Buffo, no? Su Rai 2, credo. Sì, ma Dario Fo in realtà lui si proponeva, aveva un sul suo target. Sì, sì, sì. Quindi, certo, cioè, se io ero la persona da Domenica Inn, è molto difficile mi andasse a guardare Dario Fo, soprattutto negli anni 70. Mm-hmm, certo. Era il Dario Fo al massimo della sua provocazione, il suo stile provocatorio. Se io mi vado a vedere Domenica Inn e mi trovo Leopoldo Mastelloni, che dopo aver cantato la mia mutanda pam pam pam boccola, creo turbamento. E questo, guarda, che è un qualche cosa che poi alla fine è diventato anche istituzione. Cioè oggi se non fai qualcosa che è fintamente ribelle, così, sì, certo, Maneskin, certo, i ribelli del potere, vabbè, cioè, sì, non sei nessuno, capito? Però devi essere ribelle tra le righe, come il tatuaggio una volta era una cosa da carcerato, o comunque era una cosa da banca persone, bestia, insomma, certo, da... Sì, no, da persone di strada, aveva un significato, sì, anche fatto, certo, te lo fai, te lo tieni, io uno ne ho perché uno... Non era ben visto in società, insomma, gli era tatuato, perché oggi comunque... se non hai un tatuaggio non sei nessuno, anzi poi dopo un po' ti rompi i coglioni e te li fai cancellare, cioè, sì, sì, oppure sta cosa che io ho scoperto, lo sai che portare la maglietta dei Ramones, degli hipster, dei Joy Division è una cosa da hipster adesso? No, vabbè, non frequento nessun ambiente, quindi non so. No, io l'ho scoperto. Però perché, mi fido. Sì, no, mi è entrato nel negozio un ragazzo così, con la maglietta di Ancro Pleasure del Joy Division. Stupito anche, perché comunque era anche abbastanza giovane, gran gruppo, gran disco, mi guarda come se gli avessi parlato arabo. Faccio e gli stai già dice, ah, so manco chi so. Ti giuro, ce ne stanno tanti, come tanti con la maglietta dei Ramones non hanno idea di chi siano. Sì. Capisco. E ho scoperto che è una cosa che fa tendenza, ma tendenza da hipster. Sì. È una cosa terribile. No, infatti è un mondo, appunto, poi siamo vecchi, stiamo diventando molto vecchi. Questa è la cosa che più mi... Almeno non su Young Artist, cioè Young Artist si è ammazzato perché non voleva andare a suonare, cioè in America, spaventato dall'eccesso da un successo non previsto, no? Dall'essere diventato, dal rischio di diventare di moda. Era terrorizzato, gestiva malissimo questa notorietà e a un certo punto diventa un'icona hipster di gente che oltretutto non l'ha mai sentito. Se ci pensi è questo quello di cui ti stavo parlando. Abominevole. La grande idea che diventa istituzione o comunque la sussunzione al capitale della qualunque. Sì, si trasforma nel suo esatto opposto, cioè nell'esatto opposto della sua genesi. Certo. Afferma l'esatto contrario di ciò che vuole dire. Vogliamo dire invece noi l'esatto e mandiamo Mess nella versione disco con che canta insieme a te, chi ci canta, così lo citiamo, perché noi invece questa qui abbiamo la citazione, diciamo, del mercoledì sera. Ah, sì, nel disco su Mess. Non Alberto Fazzolo che però non canta, dai, lì fa un bellissimo playback, però non... sì, no, ma anzi va terribilmente fuori tempo. l'abbiamo giocata molto sul fuori tempo, c'è un momento in cui nel video addirittura sclera, perché dovrebbe sclerare pensando al Mess, in realtà sclera perché era tipo la 20ª volta che gli facevamo ripetere a tempo la frase, cercando di mandare a tempo la frase. Sì. Allora nel disco invece è l'amico, carissimo amico Simone Lucciola. Allora, quindi se volete andare a vedere il video su YouTube, penso sia la piattaforma dove gira, no? Più sì, pure... su VK. Però tanto vai lì, insomma, no? Alla fine su VK poi ti rimanda alla piattaforma, sì, VK di P38 Punk. No, VK puoi anche caricarli, Io ho un backup di tutto su VK. Perché comunque mi aspetto che prima o poi facciano una bella stretta sullo stile Facebook. Beh, però adesso stanno facendo una stretta sui dipendenti, mi sembra, non tanto Meta e Twitter, insomma. Per ora la parte Google e YouTube non so cosa stia facendo, però... va bene, dai, quindi YouTube oppure... YouTube, scusate, VK... la piattaforma, il tubo, se volete, basta digitare P38 Punk VK oppure P38 Camp MEF, insomma, vedete il video. Invece qui ve lo sentite nella versione del CD P38 Punk MEF con Simone Lucciola. Dai. Eccoci qua. Ci siamo. Ci sei? Ci siamo. Poi tra l'altro ho lasciato i microfoni aperti, quindi anche la nostra parte in privato l'abbiamo resa pubblica sotto sopra MEF. Ottimo, sì, ci piace. Quindi vabbè, tanto poi è un pippone quello che ho fatto. No, ma poi tra l'altro quello che ci diciamo in pubblico noi lo diciamo anche, cioè quello che ci diciamo in privato lo diciamo in pubblico, alle volte anzi siamo più formali, microfoni chiusi o presupposti chiusi. No, il mio maestro c'è addirittura più cazzoni, quindi esatto, dal peggio di noi stessi, diciamo. Il peggio di noi stessi, poi che salutiamo il fantasma non è un segreto, anzi sì. Molto se prima non si è sentito lo ribadiamo, lo salutiamo il fantasma. Molto produttivo tra l'altro in questo periodo, lui e i suoi amichetti stanno facendo un sacco di lavoretti, prima o poi lo aspetteremo, pure lui insomma tornerà presto. Io prima o poi lo vorrei vedere perché è da una vita che non lo vedo. Uh-huh. Oppure ti veniamo a trovare da qualche parte, dai. Ah sì, venire a trovare Tremonti va benissimo. Va bene. Specie se dovessi avere delle rilevanze archeologiche dalle due parti, penso che lo attraversi. Quante pagina ne vuoi? Quindi, io tra l'altro sono a 4 km da casa, un miliarium di Giuliano l'Apostata, il mio imperatore preferito, per l'ultima occasione dell'ultima risistemazione della Salaria. Bene. Fare altre cose, quindi pieno di roba qui. Sì, forse sì, ma addirittura poi quest'anno poi non lo faremo mai, lo faremo talmente in maniera cazzara come facciamo tutte le cose che alla fine sarà qualcosa di difficilmente decifrabile. Però addirittura vorremmo parlare di archeologia. Un tour archeologico organizzato da noi, perfetto. O ci picchiano o svoltiamo un nuovo lavoro, cioè. Sì. Va benissimo. Potrebbe darsi incidenti. Sì. No, ma di realizzazione. Anche di cose improbabili che succedono, insomma, che non ci saremmo mai aspettati. Quindi va bene, dai, ci siamo sentiti in MES, ci sentiremo, continueremo a sentirci tutto il disco Il Mondo Nuovo, perché appunto di questo stiamo parlando, cioè di un mondo nuovo che ancora però appunto non ne scorgiamo, intuiamo la presenza ma ancora non ne mettiamo a fuoco bene i connotati. Ci avete provato con il disco? Sta nascendo. Certo. Beh, la morte del petrodollaro, credo che quello sia sicuramente la guerra è l'evento più materialmente visibile, no? Quello più di effetto. Sì, più che altro può essere interpretato. Il passo storico, certo, di quest'anno è la morte del petrodollaro. Certo. Cioè, la guerra è stato l'elemento scatenante che teneva sopite prima della guerra, c'erano sopite un sacco di cose che dovevano succedere e che sono successe più o meno in quel momento, perché in quel momento diciamo lo scontro è diventato quello aperto. Che rimango basito io è che nessuno ne parli, eppure. L'evento è scioccante. Certo. Cioè, è già morto il padre nel momento in cui l'Arabia Saudita gli Emirati anzi i produttori di petrolio L'OPEC dicono più. Ok, scambiamo il petrolio non più in dollari ma in valute locali. L'OPEC è morto il petrodollaro, certamente. Oh sì. Cioè parliamone. Sì, chiaro. E bene, ne parleremo. Va bene, un saluto a tutti, a tutte, al fantasma. Abbiamo svoltato quasi 40 minuti di delirio, di lippone, di cazzeggio. E quindi andiamo alla grande, continuiamo con la musica e noi ci sentiamo, vediamo presto, va bene? Ok, ciao, un ringraziamento, un buonanotte. A tutti, a chi è particolare, a chi è privato della libertà. Grande. Dai Marco. Ciao ciao ciao. Allora, ce lo siamo sentito più o meno tutto, però ritorniamo a quella che era la traccia che ci interessava, perché ce lo siamo sentito sotto la voce nostra che blaterava. Melvins, Giallo Biafra. The Light Side of the Global Terrorism. È già qui, negli anni 2000, il genio di Giallo Biafra. E la follia dei Melvins intuiva che qualcosa stava succedendo di importante. Da capo. 3 minuti dopo la mezzanotte, 25 o'clock ai controlli, le frequenze quelle di Radio Onda Rossa, 87.9 delle modulazioni di frequenza della banda romana e laziale. Ricordiamo il sito della radio www.ondarossa.info. Ci trovate sul sito, là in alto, sostieni, andateci a cliccare dentro. Spigne oggi l'acceleratore di 25 o'clock. E per cui dopo i ritmi così, avrebbe detto un vecchio nostro ascoltatore, fedele per molti anni, siamo preoccupati un po' che non lo sentiamo. La marcia indietro messa dal disco acustico, tutto acustico, dei Melvins del 2021, se non andiamo errati. Esatto, del 2021, che si chiama Fire Legend Dog, da quale abbiamo ascoltato la 18ª traccia del secondo disco, The Beat. Senti come spara sto cursone. E questi sono The Exploited, gli sfruttati. Hardcore dei primordi. Questo è Dead Side a capo e poi Attack, The Exploited, che messi nella stessa scaletta con Giallo Biafra suona, perché se son menati. Ma 25 o'clock, anche questi miracoli, di nuovo da capo. Eh sì, Whitey Buchanan si è menato col batterista dei Dead Kennedys. Sì, pare che sia così. Sound like dust over my dust eyes. Circle Pit, New York style, ok? Skull! Riot! Sentire una scaletta così tirata alle 11 minuti dopo la mezzanotte. 06 491 750, Radio Onda Rossa, 25 o'clock, Casualties, Riot. Fight for your light. For your life, scusate. Eh sì. Almeno quello, fight for your life. Insomma, di fronte al bilico, al baratro della guerra nucleare, ci aspetteremo almeno istinto di sopravvivenza. E malgrado tutto, malgrado insomma così l'equivocità, la mosceria, l'eterogeneità, tutto quello che vi pare, anche il fare due piazze, quella di Napoli e quella di Roma, ovviamente una più così incentrata sull'associazionismo, peraltro per lo più cattolico, o comunque legato a una certa visione del mondo, vabbè, quello che vi pare, quella più militante, quella militante di Napoli, però insomma ci voleva un così, almeno se non un urlo, uno strillo, perlomeno un sussurro, ecco, di combattere per la propria esistenza, per la propria vita. Manco stiamo a dire quella del pianeta, eccetera, il disastro ecologico creato dal capitalismo. In questo ultimo secolo e mezzo, da due secoli, dalla rivoluzione industriale in poi, appunto c'è un altro disastro, che è quello, il punto di non ritorno vero e proprio, autentico, e non perché l'altro appunto è un po' più lento, ci mette di più, ma così, se noi che siamo vissuti, abbiamo combattuto, abbiamo lottato negli anni 80, ecco, di fronte ai disastri nucleari civili e a quelli militari, dato il dispiegamento enorme di missili nucleari che avrebbero distrutto n volte, avrebbero avuto il potenziale per distruggere n volte la vita sulla Terra, almeno la vita nostra. Poi ho detto, la vita continua, pure col disastro nucleare campano le blatte, forse i sorci. E la vita continua, come si dice. Però almeno quella roba animale che si chiama istinto di sopravvivenza, difendersi con le unghie, ce lo aspettiamo ancora. Quindi, passando da The Casualties, andiamo, ritorniamo in quel delle isole britanniche. Discharge, la cucaraccia. 1977, mentre i Casualties parlano di cucaraccia. Cucaraccia home tonight. Forgive me. But every time di qua li lasciamo sfumare e ci ascoltiamo invece Living in the City. L'altra traccia emblematica, There's No Future USA, e Living in the City. Quindi deploy the Discharge, Radio Onda Rossa, 25 o'clock. Living in the city. 21 minuti dopo la mezzanotte. (06) 491 750, ce l'avevamo il telefono alzato, quindi se avete chiamato, niente, ero occupato. Se chiamate ora non vi vediamo perché la luce che si illumina nella redazione, la luce rossa della redazione più rossa che c'è, è fulminata. Ai noi. Time. It ain't up to me. quest'ultima era, la voce era a tutti gli effetti la voce di Mark Lanegan dalla sua ultima definitiva produzione. Perché dopo lo speed punk siamo passati a le ritmiche molto molto più rarefatte e rallentate di Steve Von Till nella versione solista del suo always with the will to smile to disasters and tragedy always to another day under dark skies of deepest gray just to find another way live forever. Del suo, della sua ultima produzione, no, devil know where I've been some say we should be gone you and me hanging on Kildreness Deep we could have died we had energy hands to find from corner store to corner phone our comrades drop like meat from bone we have a few more hands to e la sua Shadow and Run until my dying day la sua Ombra in Fuga each other all too well walk inside e poi appunto Mark Lanegan che ci ha raccontato la ballata del morente del morente someday we will be free. Vagabondo please say we should be gone you and me ballad of a dining rover the doctors say we should be gone you and me still hanging on you and me still hanging on. Quindi lasciamo Mark Lanegan. She don't like my empty whiskey bottles. she says, baby, I love you. She loves it when I say it, I love you too. We love the little things, whatever. We love it cause we know we're gonna hang for it. We love the little things together. We like the way we move together. We like the way we move together. Sì, a noi piace la via, a noi piace muoversi, la via di muoversi insieme. E questa è la Desert Session, quindi Josh Home e soci. Desert Session 11 e 12 si vedono in un rancio dalle parti di Desert Beach. E nel giro di una giornata o due producono le Desert Session da tanto tempo. Appunto, questo è il volume 11 e 12. E quanta verità c'è nel loro muoversi insieme. Pensiamo al muoversi insieme nell'atto sessuale, ad esempio, oppure muoversi insieme nella danza, oppure muoversi insieme nelle piazze. Muoversi insieme è di per sé una comunicazione ancestrale e potentissima. E ogni volta che si raggiunge, si recupera questo sincronismo. Si aprono tutte le possibilità. E siccome parliamo di atti ancestrali e quindi che ritornano, che rimandano alla nostra animalità primitiva, primordiale, non potremmo che, non possiamo che citare anche Desmond Morris con la sua scimmia nuda. Ed è la stessa ispirazione che traggono in un lavoro ormai di qualche anno fa, presentato anche qui negli studi di Onda Rossa per Roselux. E quindi con la voce di Tiziana Lo Conte, le chitarre e i testi di Claudio Moneta, il basso, il contrabbasso e il violoncello di Federico Scalas e le batterie e le percussioni, la parte ritmica di Marco Della Rocca. Roselux, la scimmia nuda.

59 minuti dopo la mezzanotte. Ci abbiamo le conclusioni. L'abbiamo fatto con Vita Nuova di Pat, a rimetterci in pace con il mondo. Five O'Clock non va in onda mercoledì prossimo. Apprendiamo che nemmeno quello dopo andrà in onda. Eh sì, noi amo, Johnny. He's got a mortgage. He's got a house. Oh no! He's got a house. There goes the little boy. E la colpa è dei ritmi del consumo e della produzione che non ci concedono tregua. Ovvero è il nostro tentativo di sfuggirgli. Che ci fraziona il tempo. E per sfuggire ai tempi, appunto, alle volte ci tocca mancare. E quindi vi dico che se ne parlerà per il 30 di novembre. E probabilmente però torneremo in grande spolvero, ci faremo trovare preparati. Non ci resta che salutare tutte e tutte. diffondiamo, moltiplichiamo rave dappertutto, questo è il nostro invito. La programmazione di Onda Rossa in diretta finisce ora, vi lasciamo in compagnia della compagna Sonata, automatica Sonata, con le sue bizzarre selezioni musicali e le sue repliche durante la notte. Si riprende alle 8 di domattina, di stamattina, con la lettura delle prime pagine dei giornali, la rassegna stampa cittadina. Alle 10 redazionali del giovedì di Radio Onda Rossa fino alla pausa pranzo, si riprende dalle 14 alle 15 con Tutta Scena Cinema. Alle 16 Attica Blues, alle 17 La Schiena del Sol, alle 20 e 15 Tabula Rasa, la trasmissione sui libri di Onda Rossa, e alle 22 I Cuginetti di Apostasia. 22 molto laschi e molto labili. Molto da interpretare, però ci sono. Paizo e Fonges. Il nostro abbraccio, il nostro saluto più importante va a tutti e a tutte coloro che ci ascoltano nelle condizioni di limitata libertà personale e anche se è difficile che sentano le nostre parole o le capiscano, a tutti i migranti, le persone che viaggiano, che attraversano il Mediterraneo in cerca di un'aspettativa di vita migliore, un po' di denaro, un po' di lavoro, un po' di tranquillità di fronte a agli drammatici casini che arrovellano il nostro mondo. Bella a tutta a tutte, noi ce ne andiamo sotto la luna comunista, dai. dreams, I'll share our dreams under a communist moon.